24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Sento un sindaco sospeso liberato. E poi certo, alcune coincidenze sono veramente molto curiose che stanno avvenendo in questi tempi. Si stanno saldando veramente tutti per cercare di farmi cadere e di farmi dimettere. Ma io non mollerò, devono usare i proiettili al plutonio per farmi cadere. La De Magistriseide continua, i proiettili al plutonio per farmi cadere. Grande Gigino che resiste, sindaco di Napoli, sospeso ma liberato. Sono le 6:31 minuti e questa è 24 mattino, si apre ufficialmente la 75esima settimana decisiva per la riforma elettorale. È decisiva anche per l'abolizione delle province. Ora adesso si accorgono tutti che le province non sono state abolite, ma noi qua sono 75 settimane che lo diciamo. Adesso spuntano articoli, leggevo l'Espresso venerdì: oh, ma le province non sono abolite, ma va, ma dai. Ma io ho detto sempre: ma usate un metodo vecchissimo, andate alla prima sede della provincia più vicina di casa vostra, bussate, toc toc toc. E se vi apre qualcuno, vuol dire che sono ancora lì le province, vive e vegete, no? È molto semplice. Comunque, siamo qui. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione e saluto Peter Bescapei. L'Alpino è tornato. Dove eri finito, Alpino? Un Alpino che lavorava di sera. Una roba che non si è mai vista. Vabbè. Allora, apriamo il Parlamento, va. Ah, porca adesso miseria. Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Chi è che ci ritroviamo qui? Sempre i soliti, quei due gobbi lì, maledetti. Sono sempre loro, sì. Chi è che c'è? Adinolfi c'è. Pronto? Carlitos, Tevez, 1-2. Mamma mia. Mamma mia, io dico, ma Totti, ma fa bene. Federico Novella, buongiorno. Buongiorno, è permesso? Sì, prego, avanti. Scusate, ma mi giro un po' la testa perché da primi in classifica c'è un'area un po' rarefatta quassù, scusate. Mamma mia, ragazzi. È così. Quando finirete di rubare? Era un arbitraggio, tipico arbitraggio creativo, vero Adinolfi? Ma quando è che, Mario, quando è che finirete? Quando è che inizierete un po' a vergognarvi? Quando voi inizierete a vincere, cioè mai. Ti ricordo solo una parola: Manchester. Manchester. Io so, il tuo urlo vintage rimane. Manchester. Facciamo la lezione di storia medievale, che facciamo? Manchester, l'unica finale della storia della Champions League tra due squadre italiane. Manchester. La storia siamo noi. No, questo è. Vabbè, ma non lo so, ma che di. Ma ha ragione Totti, ma fate un altro campionato, tanto arriviamo secondi che quest'anno, ha detto Totti. Ma... comunque siamo alla Roma, ciò che c'è la Roma, dai. Sì, che c'è? E all'arbitro anche. Ma dove sei andato, Federico? Stai facendo benzina. Eccomi. Stai facendo benzina. No, certo. Ma ogni volta. Che sì, diamo la Roma quel che è della Roma, il secondo posto. Diamo la Roma quel che è della Roma. Il secondo posto, ma certo, ma è impossibile vincere in questo campionato. Adesso cosa faranno? Adesso daranno mezzo rigorino in una partita che non conta nulla, così Marotta dirà: vedete, si compensa tutto, quando è chiaro che contano solo gli scontri diretti. Marotta, contano solo gli scontri diretti e rubare negli scontri diretti vale 6 punti. Vabbè, insomma, mi sto facendo prendere un po' troppo la mano? Mario, come va? Un po' troppo. Vabbè. Leandro Bonucci. Va bene, va bene. Ma chi è che stava lì in fuorigioco di Nolfi? Ricordami un po'. Chi è che? Non so, due o tre, ma la cosa più divertente del mondo. Ecco, ecco. È la cosa che mi piace. Ecco, infatti, perché non ricordavo, perché non ricordavo quanti. Non ricordavo due quanti. Due fuorigioco, ma è meraviglioso. Due o tre. Quante è bello. Due o tre. O quattro. C'era anche qualche banchinaro in fuorigioco. Sì, sì, c'era Allegri in fuorigioco. Era lì che gridava: dai, dai, che vinciamo, dai, in fuorigioco. Vabbè. Lascia stare Allegri, che ha pure diviso Morata da Manolazza. È vero, è vero. È un uomo di sport. Svolto il suo ruolo decisivo. È un uomo di sport. Va bene, dai. Allora, di che bisogna parlare? Qua c'è il lavoro, forza, batto le mani, perché Renzi vuole sistemare tutto. Parliamo di queste cose. No, ecco, parliamo di Gigino De Magistris. Che ne pensi, Marione Dinolfi? Per me fa bene. Per me fa bene. Ma fare che? A stare lì, ma tra quattro mesi. Certo, fa benissimo, fa benissimo. Fa benissimo. Ragazzi, finalmente la Nemesi è sempre divertentissima, no? Io trovo tutto questo fantastico. Uno che ha fatto il magistrato, che gridava per la legalità, adesso la prende in quel posto e dice: ah no, cattivissimi magistrati. Ma adesso è straordinario. Come fanno a scrivere dei plot così in Italia? Ma veramente sembra una fiction. No, perché io non sto scherzando. Non sto scherzando quando dico che fa bene, secondo me. Mancano quattro bene mesi. A stare lì, a fare il sindaco sospeso di ste ma cose. Sì, ma tanto è Napoli, ragazzi, posso fare come no, gli pare. Come? No, sai come funziona la regola, è un po' così, pollacca, no? Per cui. Guarda che con Napoli, già con Napoli hai avuto guai, Non fare. Fai ah, bravo. Già, mi dico, mannaggia, tu stai sempre attento a sta. Ma insomma, lì le regole valgono diversamente, insomma, capito? Per cui l'evento va bene anche per il sindaco. Va bene, va bene. Ha da passare nottata, sindaco sospeso, Federico, tu non lo inviti De Magistris? Guarda che viene, Tanto ormai a Napoli non può stare. Ma no, ma lui non si allontana, secondo me, da Napoli, perché ha paura che ha paura che qualcuno gli tolga la poltrona da sotto, sai? Però non lo so, può darsi che gli convenga stare al suo posto. Lui credo che conti su una facile prescrizione, ho letto. Eh no, certo, tra quattro mesi è tutto. Finisce tutto in vacca e lui ritorna. Ma tu pensi che lo rieleggano dopo tutto? Ma questo non lo so, questo sarà una questione tra due anni. Questo se la vedranno gli elettori, voglio dire. Hanno eletto di peggio, diciamo. Possiamo stare tranquilli. La democrazia degli elettori, dei cittadini, dei cittadini. A Napoli c'è una creatività sui sindaci meravigliosa. Quindi chissà chi sarà il prossimo. Perché chi è il peggiore, secondo te? Il peggiore si chiama Antonio Bassolino. Eccolo. Un sindaco meraviglioso, commissario del sistema rifiuti, e abbiamo visto come è finito il sistema rifiuti, insomma, a Napoli, con la città invasa da monnezza in maniera. Sei mai andato a Napoli nella fase in cui c'era la monnezza? No, in strada? No. E dovevi farti quella passeggiatina, guarda, che era una cosa interessante, insomma, da vedere. Bombay, insomma, era molto interessante. No, era molto interessante. Arrivavi alla stazione, scendevi e trovi una marea di monnette. Salutiamo mare, sempre a nome di Napoli. Saluto amichevolmente Mario Dinolfi, che verrà sempre accolto. Il sindaco Antonio Bassolino è stato meraviglioso. Era anche commissario dei rifiuti, presidente della regione e ministro. Cioè, comunque, faceva tutto. Sì, tutto. Comunque, il buon Moreno mi scrive: Mario, lascialo perdere. Credo che ce l'abbia con me. È simpatico. Come una Fanta calda in cantina. Sì, effettivamente la Fanta calda è peggio della Coca-Cola calda, che è sgasata. Coca-Cola calda e sgasata. Vabbè, la Fanta calda effettivamente questa mi mancava, è bella. Complimenti alla Moreno, è veramente divertente. Mi mancava. Qui stai elogiando un nostro ascoltatore? Elogiando, io ho adesso gli insultatori creativi, che sono una cosa molto più divertente dei soliti insultatori, io ciccione, eccetera, eccetera. Ma gli insultatori creativi li adoro. Cioè, uno che, siccome io giro in smart, non ci crederete, ma giro in smart. No. Uno perché non dovrebbe. No, Federico, perché tu ridi? Perché non dovresti crederci? Ci crederò appena me lo spiegherà. Sì, esatto. E questo insultatore ha scritto divertente su Twitter: ma che fanno mai? Ti sgonfiano e ti rigonfiano dentro. Insomma, che l'ho trovato meraviglioso. Vabbè, vabbè. Adinolfi gira in smart, è ufficiale, smart contro rossa. Le leggi della quantica e della fisica. Adinolfi gira in smart. Va bene, qua stiamo un po' cazzeggiando, mentre qua Renzi domani. Ecco, io vorrei capire una cosa intanto. Federico Novella, secondo te domani coi sindacati che fa Renzi? Li convince il TFR in busta paga, parla con gli industriali, convince tutti, cioè come la vedi questa settimana? Decisiva ovviamente, ma decisiva come sempre, ma quando ci sono questi grandi momenti di tensione di solito il vertice si concludono con va bene, ci riaggiorniamo a più tardi, cioè, ecco, rinviano tutto, ecco, vabbè, ci rivediamo fra un mese e poi vediamo. Non lo so, guarda, non lo so, però non mi sembra che ci siano le condizioni per una grande pace sociale, non so cosa ne pensate voi. Ma non lo so, qua c'è Mario Adinolfi, dice che tanto lui può fare tutto. Per me al vertice con i sindacati ci va direttamente con le trombette, i trick track e i coriandoli. Con i proiettili, con i proiettili al plutonio. Con i proiettili al plutonio. No, ho capito, ma... però Mario, non è che Renzi adesso possa fare tutto così facilmente come dici tu. Non hai capito, è imperatore. È imperatore, quindi va là, si dice cos'è, qual è la vostra opinione? Ah, molto interessante, si alza e se ne va. Questo sarà il confronto con i sindacati, questo funzionerà più o meno così. Vabbè, intanto sui sindacati sentite, continua a dirlo, l'articolo 18 vale per tutti ma non per loro, Renzi. 44 anni di statuto dei lavoratori, l'articolo 18 vale per tutti tranne che per i sindacati e per i partiti. E vabbè, questa si siederà così, Mario, li accoglierà così. Benvenuti voi che non avete l'articolo 18. La battuta funziona. Sì, proprio questo è il problema, cioè si va avanti a battute che... No, però ha anche un senso, diciamo. Tu trovi credibile uno che difende l'articolo 18, però poi non lo applica sulla propria struttura di dipendenti. Effettivamente effettivamente. Allora, dai, su, una cosa ha un suo senso, non dice una boiata. Ma chi è che gli ha tirato le uova, secondo voi, Federico? Cioè, questo segnale... La Camusso. Sì. Era la Camusso, travestita. Esatto, l'ho vista uscire da un supermercato carica di uova. No, a Ferrara, era lì a Ferrara, esatto. Sono arrivate le uova... Ma sì, ma dai, i sindacati sono uno di quegli enti che hanno il più basso tasso di fiducia nei confronti degli italiani, da parte degli italiani, quindi Renzi da quel punto di vista ha un'autostrada davanti. Un po' più problematica la vedo con la minoranza del partito, un pochino più problematica. Ma lì ci piazza una bella fiducia, tutti zitti, tutti in silenzio, pare che sia proprio tentato a piazzare la fiducia e quindi farà così. Anche qui, Mario, niente, tutti silenziati. Allora, tu veramente Federico si agita per la posizione di Cooper o di Civati? Cioè, no, figurati se mi agito. Lì mi devo fare benzina, questo. Io al massimo faccio benzina. Agitarsi, cioè. Agitarsi. Però, secondo me, i ragionamenti logici quando si parla di certi ambienti del PD non valgono. C'è un tasso di estrosità che... Esatto. No, ma visto che hai citato Cooper, fammi capire, perché io l'ho capito così, ma è vero, ditemi voi che sapete tutto, è vero che Cooper lo sta per fare il Leopoldo contro la Leopolda di Renzi? Ditemi che non è vera questa cosa. Ha lanciato il Leopoldo. Sembra il titolo di un film di Alvaro Vitali. Sì. Leopoldo. Non lo so. Leopoldo tutto caldo. Esatto. Non volevo dirlo, però in effetti. No, vabbè. Ma questi due che si sentono i primi in classifica, cioè, proprio no, si sentono dall'alto. La classica arroganza juventina, Cooper, vedete come si sistemano. Vabbè. Eccola. Allora ditemi cosa ne pensate di questa cosa del TFR. Io non ho ancora maturato una posizione precisa, perché in realtà c'è chi dice ma come, ma si fa bello con i soldi nostri, cioè ci dà più soldi in busta paga anticipandoci dei soldi dicendo spendete, ma sono soldi nostri e li tassa. Però effettivamente è un'anomalia tutta italiana quella del TFR che arriva a fine carriera, per chi ovviamente ha un posto di lavoro. Quindi, da un certo punto di vista, uno potrebbe dire ma datemeli prima, effettivamente. Mario, tu che ne pensi questa storia? Io sono contrario alla storia del TFR in busta paga, perché il TFR, a noi, questa generazione un po' sfigata di mezzo degli anni 70, ci hanno spiegato che il TFR era la seconda gamba della previdenza, ti ricordi? Sì, certo. Cioè, noi dovevamo avere una pensione da fame, Poi però mettendo il TFR nei fondi avremmo avuto una seconda parte di previdenza, avrebbe integrato il nostro reddito, e da anziani, siccome a me ormai non manca tantissimo, una ventina d'anni diciamo così, in più o meno saremmo riusciti a campare al di là delle scatolette del supermercato. Non so se tu, dopo tutto questo discorso che hai fatto per 15 anni, anzi quasi 20, da riformatini, prendi e metti il TFR e lo togli questo secondo pilastro, cosa resta dell'impalcatura che prevedeva una previdenza di questo genere? Perché ricordo che una decina di milioni di italiani, quelli appunto nati dopo il 1970, hanno una prospettiva pensionistica che non va oltre la minima sociale, non va oltre la minima sociale. Tanto un presidente INPS disse una volta: non facciamo sapere a questi quanto prenderanno di pensione, altrimenti c'è la rivolta sociale. Se tu togli il TFR da questo sistema, io credo che noi potremmo avere tra un paio di decenni una condizione sociale italiana davvero da terzo mondo, e questo generalizzata, riguardante decine di milioni di individui. E questa cosa mi preoccupa molto. In più c'è la questione delle tasse. TFR, come sapete, certo, è tassato in maniera diversa. Sì, pare che si vuole tassarlo al 25% secco. È molto di più di quella della tassa che No, ma infatti è questo che non mi convince. Cioè, perché da una parte dice sì, sono soldi di più, però dall'altra parte dice: ma ti fai bello con i soldi già miei, e me li tassi anche di più. Perché sono convinto che la questione nodale in questo momento sia abbattere pressione fiscale, innalzarla su un elemento, insomma, che è tra l'altro un elemento di salvaguardia del futuro dei lavoratori, non lo trovo una mossa. Vabbè, tu Federico che dici? Ma io l'analisi di Adinolfi la condivido, e poi contesto anche un po' il principio di rompere il salvadanaio, no? Dare questi soldi così in busta paga, lo ha dimostrato già con gli 80 euro, non serve, perché poi la gente se li tiene stretti. Da generazione anni 80, quindi ancora più sfigata, che la pensione non la vedrà mai, ti dico che non mi pare giusto avere l'uovo oggi per rinunciare alla gallina domani. E non mi pare neanche sensato, visto che so che Renzi ha detto lo Stato non deve più fare lo Stato mamma, no? Che ti dice quando devi spendere i soldi, che potrebbe anche andar bene, però se poi lo Stato mi minaccia di alzarmi l'IVA di 50 miliardi, io so già come lo spendo il TFR. Non farà lo Stato mamma, fa lo Stato papà col bastone. Lo Stato matrigna, capito? Esatto. Vabbè, andiamo a sentire il traffico, poi rientriamo dopo la segreteria telefonica imprescindibile, c'era anche un vendola come non l'avete mai sentito. C'è anche l'unico sindaco d'Italia indagato per buche. 24 mattino. Ciao Ale, io non riesco neanche a incazzarmi quando racconti tu le notizie, cosa vuoi che ti dica? Alessandro, ma noi di tutto questo, ma che ce ne frega? Ma cosa c'entrano le leggi sulla retroattività dei vitalizi, la Corte Costituzionale, tutte ste balle? Tu hai diritto al vitalizio, però i soldi non ci sono, questo vale per tutti. Non ce ne devono essere, non ci si mettono, finito, c'hai diritto, ti entrano nel culo il diritto. Non ce ne sono soldi, finito. Milan, tu sei il trombettiere della disinformazione. Buona giornata, caro disinformatore. Continua l'informazione spettacolo! Mentre in Kenya con la merda e la paglia costruiscono capanne laggiù, in Italia questa zozza marmaglia si costruisce le ville, gli yacht. Beh, vabbè, così, Mario, capisci? È stato sempre peggio, però se la prendono con te, insomma. Sì, vabbè, questo trombettiere della disinformazione. E questo va bene, io dico sempre sfogatevi contro di me, che risparmiate i soldi del lettino dello psicologo, va bene, ma tu non sai quanti soldi facciamo risparmiare la gente che si sfoga, invece... Dici a me. Appunto. appunto, poi magari se no la gente va fuori per strada, si arrabbia al semaforo, trova novella lì. Sei aperta la sbarra? Prima abbiamo sentito un bip, sei aperta? Guarda, sì, miracolo, è come il miracolo di San Gennaro, si ripete la sbarra, si ripete di ogni giorno, tutte le volte, arriva lì, noi pensiamo magari lo licenziano in diretta, facciamo una roba alla Barbara D'Urso, no? Ci provo ogni volta, non mi riesce, no, si alza anche stamattina. No, perché ci sarebbero le faccine, le lacrime, il dramma. programma in diretta, invece no. Vabbè, allora sentite qui Vendola intercettato da Radio Rock. Chi è da Radio Rock? Vendola, dicono canti Vendola, vengo anch'io, no tu no. E Vendola andare tutti al zoo comunale, al zoo. Mamma mia, per vedere come stanno le bestie feroci, grande, e gridare aiuto, è scappato il leone, per vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io, no tu no. Sono molto in anticipo. È un grande. Forse è solo quello il problema. Ma è un duetto tra me e Renzi, no? Sì. Attenzione, a Renzi. Perché no? Lo proponga questo duetto a Renzi. Potrebbe andare allo zoo comunale. Eccolo lì. Voto ad Inolfi. Ma è roba vera, non ho capito. Come è roba? Certo, no, dai, dici la verità. Certo che è vera. Andava. Ci sono questi di Radio Rock che si mettono alle manifestazioni. E quando. No. E quando si mettono nelle zone e dicono venga onorevole, ci fa per Radio Rock, e Radio Rock invece di un'intervista gli fa cantare una canzone. E intanto bravi colleghi di Radio Rock, perché fanno una cosa straordinaria. Spesso i politici riescono a farsi prendere per il culo pure alle manifestazioni. Vabbè, ma voto boh, ok, X Factor, se noi ce l'ha l'X Factor può cambiare, non può cambiare mestiere. Non lo so. Io e Federico Novella gli diamo 4 sì, vai buttiamo. 4 vai buttiamo. Sì, 4 sì. Basta che molla la poltrona. Vabbè, questa è battutaccia, ma perché tu voti per 2? Pure Novella che alza una quaresima, oggi è simpatico come una fanta calda. Sì, ho capito. Io lo adoro. Mi innervosite un po', perché io vi invito. Io vi ho invitati. Sicuro che questa volta l'arbitro avrebbe fatto le cose per bene, che la Roma vi avrebbe dato una lezione di quelle. Milan, sì. Ti posso dare una proiezione statistica? Sì. Se sì. Dopo 6 giornate stai a 7 punti di distacco, alla fine campionato stai a 42 come l'anno scorso. Bravo. Cioè, capisci? Bravo! È meraviglioso. Bravo! Le tue certezze le puoi mantenere. Bravo! Certezza matematica. Ora vai a rivederti una partita giocata a Manchester. Sai, ero all'Old Trafford e mi sono addormentato. Sì, ti sei svegliato alla fine, forse. Ho dormito. Ti sei svegliato alla fine. Vabbè. Allora, vogliamo solo sentire Crozza. Poi facciamo l'appello per Free Rossella Brescia. Dovete aiutarmi anche voi, per favore, perché io voglio invitare Rossella Brescia qui al Parlamento. Ma quelli di RDS, noi non abbiamo paura di fare i nomi e i cognomi. RDS, secondo me, non vogliono. E quindi, dai, Adinolfi, fai un appello tu, pubblico. Free Rossella subito. Brescia, subito, dai. No, se la Brescia è buona. Quindi capisco le ragioni di Milan, le capisco perfettamente. Liberatela e fatela arrivare, perché io e lui fa la schiuma tutte le mattine, giustamente pretende qualcosa di meglio. No, e noi sottolineiamo a Rossella Brescia questo apprezzamento. Sei buona, per favore, darci insomma un segno della tua bontà. Tu, no? Federico, vuoi un appello a Rossella Brescia che venga da Milan, e un appello a Milan: quando arriva Rossella Brescia chiama anche a Adinolfi con la Smart e Novella. Va bene, tutti insieme. Ma Milan Brescia è anche una partita di calcio, un'autostrada, che cos'è? Vabbè, qua siamo veramente. Veramente ti devo far sentire Crozza, perché sennò senti Crozza, Crozza. Un attimo, prima devo bagnare la Madia, si è seccata. No, ma non deve bagnare. Perché allora io do un po' d'acqua alla Madia. Non deve dare l'acqua. La bagno sempre? No, ma non deve. Devo spolverare la Boschi? Ma che spolverare? Volevamo fare delle domande. La Boschi è qua. Guarda che non è male questa. Vabbè, ma no, sono 3 mesi che è rimasta qua. Non è male. Crozza su Renzi, la Madia e la Boschi, non è male. Devo dare l'acqua alla Madia, è bellissimo. Spolverare la Boschi. Non è male, non è male. Vabbè, Federico Novella, di che parli alle 9 su Mattino Oggi il problema casa, con le case popolari, la guerra fra italiani, occupanti, stranieri, centri sociali, insomma il degrado che parte da Milano ma in realtà in tutta Italia, dalle 9 in poi su Canale 5. Sentilo Adinolfi, perché si capisce che vorrebbe parlare di Rocchi. Vorrebbe parlare della Juve. Si sente che vorrebbe. Parliamo di Rocchi con un oftalmologo, esatto, un ottico. Vedi che cominci ad ammettere.

Sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, Matteo Renzi sembra voler tirare dritto sul TFR. Intanto il Premier lo vuole mettere in busta paga al prossimo febbraio ai lavoratori, ovviamente su base volontaria, cioè se i lavoratori lo vorranno. Secondo Repubblica c'è già un piano, 8 cartelle, ben dettagliato. Il TFR verrebbe tassato al 26%, lo Stato ha già calcolato un possibile introito da 1,7 fino a 5,6 miliardi di euro. Ovviamente questa cifra maggiore è se tutti i lavoratori, tutti scegliessero di volerlo in busta paga. Insomma, un Renzi che tira dritto poi sul Jobs Act, sembra sempre più chiaro che voglia porre la fiducia al Senato per depotenziare le opposizioni, primo fra tutte l'opposizione all'interno del suo stesso partito. E Renzi tira dritto anche sui sindacati, un po' spiazzati. Dopo mesi ha convocato i sindacati, domani li incontrerà a Palazzo Chigi. I sindacati temono, già arrivano un po' divisi a questo incontro, e temono poi, e uso le parole di Luigi Angeletti della WeLoge al secolo XIX, temono che sia tutta una sceneggiata. Discutiamo di questo alla vigilia di una settimana in cui i temi del lavoro, i temi dell'economia e la manovra all'orizzonte, ovviamente la legge di stabilità, si profilano come cruciali, con il nostro Oscar Giannino. Oscar, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Saluto il responsabile lavoro per SEL, l'onorevole Giorgio Airaudo. Buongiorno, onorevole. Buongiorno a voi. Eccoci. Oscar, intanto iniziamo dal TFR. Io non l'ho ancora capita bene, cioè non mi sono fatto un'idea, perché sono soldi nostri. Sono soldi nostri che, per cui farsi bello con i soldi nostri è un po' così, un po' una... Però ce li anticipano ed potrebbe essere una buona cosa, però ce li tassano di più, non ho ben capito. E poi insomma la liquidità delle imprese non si capisce da dove lo vanno a tirar fuori. Allora, questa storia del TFR come la vedi? Ma dunque, il principio del dire siamo l'unico paese in cui c'è il salario differito mentre altrove i lavoratori sono più liberi è giusto, secondo me. Cioè, a me l'idea che i lavoratori saprebbero meglio di chiunque altro cosa fare dei soldi in busta mi piace dal punto di vista liberale, però attenzione, i numeri per capire, perché tu giustamente dici è un po' complicato farsi l'idea. Ogni anno, diciamo che in questo 2014 dovrebbero maturare più o meno 26 miliardi e mezzo di TFR nella componente pubblica e privata. Che fine fanno attualmente con la complicazione delle leggi italiane? Più o meno 10 miliardi, ecco il problema che dici tu, restano in pancia alle imprese. Sì. Che sono obbligate ad accantonarlo e a rivalutarlo ogni anno. Però poi c'è il resto. Che cos'è il resto? 5 miliardi e mezzo, con le regole folli introdotte alcuni anni fa, sono sempre dei lavoratori e delle imprese private, però se li prende l'INPS e l'INPS li gira allo Stato, che li usa per coprire spesa corrente. Poi ci sono altri 5 miliardi erotti, che sono il TFR, che in teoria ogni anno matura per i dipendenti pubblici, che però lo Stato non accantona mese per mese, a differenza dei privati, perché quando ne ha bisogno e finisce il lavoro li piglia i soldi che ha e paga, però non li ha accantonati. E infine c'è un po' meno di altri 5 miliardi restanti che i lavoratori privati utilizzano come loro diritto per i fondi previdenziali integrativi. Allora, la questione è, pare di capire che il governo solo per i dipendenti privati che decidano di volerlo, dice alle imprese, voi dateglielo in busta, le imprese protestano, sono contrarie perché non ci levano la liquidità, lo Stato dice, sì ma noi vogliamo fare in modo che coi soldi che presta la BCE alle banche, le banche li coprano loro in maniera tale che voi praticamente le banche vi prestano i soldi e sono le banche che alla fine danno direttamente i soldi al lavoratore e quindi per voi non dovrebbe cambiare niente. Punto interrogativo, se non si fa questa cosa per le imprese è impossibile. Per me resta il punto, i lavoratori pubblici possono, attualmente lo Stato non ha i soldi da dargli, uno, due, e poi quei quarto di TFR che lo Stato praticamente si è preso ogni anno per pagare la sua spesa corrente, di quello non ne vogliamo parlare. Sì. Quindi principio giusto, ma tanti problemi. Tanti problemi. Oggi Repubblica scrive che emette insieme i lavoratori pubblici anche insieme ai privati. Settimana scorsa i pubblici sembravano esclusi da questa possibilità. Non ho capito che cosa sia cambiato o se è cambiato qualcosa. Cambia che lo Stato deve trovare più soldi, perché a quel punto deve rinunciare a spesa corrente anche lui. Non è un caso che ieri Morando, per la prima volta, abbia parlato di 15 miliardi di un punto di PIL complessivo per tutte le misure del lavoro, dal nuovo sostegno al reddito universale fino a questa cosa qua, perché prima non si era mai parlato di queste proporzioni di impegno, si parlava al massimo di 1,5 miliardi per il nuovo ASPI, cioè per il nuovo sostegno, sì, alla disoccupazione esteso a tutti. Ieri ha detto 15 miliardi. Onorevole Airaudo, che ne pensa? Insomma, questa cosa del TFR, secondo Renzi, potrebbe essere una mossa che raddoppia, se non triplica, l'idea degli 80 euro, cioè mettere a febbraio, quindi in maniera concreta, in busta paga ai lavoratori in un'unica soluzione il TFR dell'anno maturato. Le pare una buona cosa o le pare un farsi bello coi soldi nostri, come qualcuno ironicamente ha detto? Ma guardi, mi sembra che il Premier stia cercando di venderci la Fontana di Trevi. Quei soldi lì sono nostri, come diceva anche poco fa Giannino, lo sanno benissimo i lavoratori. Che i lavoratori possano averli o decidere se averli o no liberamente tutti è una vecchia idea del sindacato, cioè non è una grande novità. Insomma, il primo che ne parlò in casa sindacale fu Bruno Trentin molti anni fa, per farle un esempio. Quindi sarebbe una cosa buona, non credo che si possa fare però senza dei provvedimenti. Per esempio, bisogna capire se quei soldi lì verranno tassati come il resto della busta paga, e se vengono tassati diversamente come fanno. Pare al 26%, pare al 26%, questo almeno nello studio che viene anticipato oggi. Bah sì, insomma, guardi, io di questi studi vorrei vedere finalmente qualcosa di scritto e di certo del governo, perché tra dichiarazioni e indiscrezioni noi discutiamo più su battute e polemiche del Premier o su commenti e interpretazioni presunti che di fatti concreti. Stiamo discutendo da settimane del Jobs Act, e se guardiamo quella delega, in quella delega c'è tutto e niente, per esempio. Quindi a me sembra una cosa giusta, mi sembra molto difficile improvvisarla come sta facendo il Premier, mi sembra chiaramente un colpo mediatico. Io continuo a pensare che lui si tenga aperta la strada elettorale, mi sembrano sempre mosse elettorali. Ah, cioè lei sta dicendo che in realtà all'orizzonte c'è che Renzi vuol far saltare il banco, o capisce che alla fine salterà il banco e vuole andare alle elezioni nel 2015. A me sembra che lui abbia un istinto da scorpione, quindi non si fa portare dalla rana, anche il rischio di affondare, con franchezza. Resiste all'istinto, come non resiste alla battuta, non resiste, sì, alla rissa, alla provocazione, temo che abbia questa intenzione. Insomma, poi guardi, posso aggiungere, sì, una cosa, quei TFR, come oltre alla divisione di cui parlava Giannino, della posta intera dei TFR, bisogna sapere che quel TFR è spesso utilizzato anche per molte altre attività, spesso è per esempio in garanzia per i lavoratori che si sono indebitati con le finanziarie, altre volte è stato in parte preso per acquisto di una casa o per ristrutturazione, altre volte ancora è stato speso per emergenze sanitarie, quindi l'effetto sul paese, l'effetto distributivo, perché non sarebbe redistributivo essendo soldi nostri, soldi dei lavoratori, è tutto assai più aleatorio degli 80 euro. Ma insomma, l'istinto dello scorpione, qui Oscar si insidia e si instaura quel discorso che spesso si dice, ma sì, ma è tutto, come dire, non vorrei dire una parola fuffa, perché poi tanto c'è il profilo dell'orizzonte delle elezioni del 2015, però il sospetto da alcune parti politiche, anche Airaudo ce l'ha confermato, è questo. Però gli italiani, ma sarebbero pronti ad accettare un'ennesima situazione in cui la panna montata si sgonfia e via, si va a votare? Io credo che la gente sia veramente stremata da questo tipo di giochino politico. Questo lo credo anch'io. Se guardiamo dal punto di vista politico, però il punto di forza di Renzi è sostanzialmente uno, è che lui è solo in campo. Cioè, come devo dire? E quindi potrebbe fare le cose invece di dire puntare alle elezioni. Da una parte. Dall'altra, la posizione di questo governo è di tentare di farle, per così dire, muovendo il minimo possibile dal punto di vista della spesa e delle tasse. Quindi il margine è poco. Di qua l'inventiva, come dice Airaudo, e lo capisco, condivido in larga parte, dell'inventarsi cose prima di scriverle, e che però poi cambiano poco, perché in effetti così è stato con gli 80 euro, che però bene hanno fatto, ma non quello che il governo raccontava. E anche su questo TFR, siccome ha ragione Airaudo, la cessione del quinto dello stipendio è la classica misura di ultima istanza del lavoratore in difficoltà per sostenere i propri consumi, sono centinaia di migliaia quelli che già vi ricorrono, però non c'è dubbio, Renzi ha una panoplia, una lunga serie di proposte che disegnano un obiettivo politico. Il suo obiettivo politico è: sono solo in campo, non c'è un'opposizione che abbia un leader capace di contrastarmi né sui programmi né di essere candidato e di battermi, voglio mettere in piedi stabilmente un partito di identità nuova, perché la vera opposizione ce l'ha nel suo partito a sinistra, che miri stabilmente a essere il 40% del paese. Tutto si legge in questa strategia, io sono d'accordo che è così, perché non c'è un'alternativa, altrimenti non si spiegherebbe questa maniera concitata di porre un argomento, sì, di però porre un argomento dopo l'altro. Sta agli altri, sia a sinistra che a destra, dire bene, noi ne abbiamo un'altra strategia, qual è? Ma non si vedono, questo è tutto. No, ma è chiaro, infatti, perché mettere il Jobs Act, si sta discutendo riforma o no di una importante riforma del lavoro, dovrebbe essere davvero un qualcosa di strutturale, e subito pam, spostare l'obiettivo sul TFR. Ti faccio un altro esempio, due secondi. In questa strategia politica c'è la simmetria di bastonare a parole, senza tenere in mano i sindacati sull'articolo 18, e la rappresentanza, che è l'altro problema che farà, perché lui domani li vuole invitare sfidandoli ai contratti decentrati e non a quelli nazionali. Ma dall'altra parte bastonare Confindustria, far finta di non vedere che Confindustria e tutte le associazioni di imprese sono contrarie alla cosa del TFR, e dire vado dritto, e dire gruppi pubblici, fatemi un favore, uscite da questa Confindustria, bastona entrambe le parti. Sì, è chiaro, perché è il voglio dire, ha il 40%, anche se è un'elezione europea, è la sindrome di chi si sente forte senza una grande opposizione in campo. Airaudo, prima della pubblicità, lei da ex sindacalista, fosse domani invitato all'incontro, visto che lei dice è prestato alla politica, ma in fondo è sindacalista nell'animo, cosa direbbe domani a Renzi e cosa si aspetterebbe? Si aspetterebbe come Angeletti che possa essere una sceneggiata l'incontro di domani? Ma è chiaramente una mossa d'immagine da cui lui cerca, come si dice, di guadagnare dei vantaggi rispetto a un inizio di mobilitazione, perché che per quanto tardiva e timida sta comunque iniziando, anche perché insomma lui fa abbastanza lo sbruffone il Premier, ma se in questo paese ci fossero alcuni milioni di lavoratori che non sono d'accordo con lui, anche il suo effetto delle elezioni europee verrebbe messo in dubbio e quel 41% comincerebbe a essere tarlato. Io gli chiederei di discutere di tutto, sinceramente, non penso che il Premier possa decidere che cosa fa, discute con le parti sociali, che cosa no, cioè, per capirci, da un lato lui prepara la fiducia in Senato e dall'altro dice discutiamo di cose che peraltro nella delega non ci sono, se non una, cioè quella, come si dice, dei minimi salariali, che è quasi un dito nell'occhio alle organizzazioni sindacali italiane, che comunque hanno difeso una forma molto attenuata di contratto nazionale. Quindi io chiederei al Premier di discutere di tutto e gli chiederei di sapere se il giorno dopo mette o non mette la fiducia, perché se mette la fiducia ci fa discutere delle briciole. Temo che su questo discutere di tutto è proprio ciò che Renzi non voglia più come metodo, Come però nel senso se diventa un discutere per poi non fare nulla, però Milan, ma non si tratta di non fare nulla, si tratta di fare, adesso, per esempio sugli 80 euro lui avrebbe potuto ascoltare qualche buon suggerimento e forse si sarebbero distribuiti anche a una parte di pensionati, a una parte di persone più fragili, anche a quelle partite IVA che sono sicuramente più fragili di un pezzo di quei lavoratori dipendenti che hanno preso almeno una parte di esse, che hanno preso gli 80 euro. Insomma, ci sono delle cose che si possono fare discutendo anche rapidamente, sì. Anche perché questo sindacato ha fatto nel passato molte cose discutendo con i governi, allora, e ne ha ingoiate anche abbastanza, forse troppo. Allora, ripartiamo da qui dopo la pubblicità con Giorgio Airaudo, onorevole di SEL, responsabile il lavoro di SEL, e con Oscar Giannino tra poco. 24 mattino. Allora, le 8:37 minuti, ai nostri microfoni ci sono l'onorevole Giorgio Airaudo di SEL e il nostro Oscar Giannino. Oscar, vedi, ci scrive Stefania Baldinotti su Twitter, no? Ha coinvolto anche te. Ma è vero che il TFR è su base solo volontaria, Ma intanto chissà se ci sarà. Però sì, su base volontaria questo. Perché c'è questa preoccupazione, secondo te, da parte di molti che possa essere obbligato? Cioè, cosa non va bene di trovarsi a febbraio in busta paga qualcosa in più eventualmente? No, l'eventuale obbligatorietà fa a pugni con due principi. Primo, molti lavoratori decidono già diversamente di che cosa fare del proprio TFR, chi per previdenza integrativa, chi appunto perché lo impegna per consumi con la cessione del quinto, chi perché lo utilizza chiedendo nell'anticipo. Quindi è ovvio che è giusta la base volontaria per questo. Secondo, la base obbligatoria estende inevitabilmente l'esposizione delle imprese, no? Che devono dare più liquidità a quel punto, se la devono dare per tutti obbligatoriamente, e quindi deve allargare la possibilità che ci sia tutta da vedere per il momento che siano le banche ad anticipare, quindi l'obbligatorietà è un problema. Resta il fatto, io su questo sottolineo, che è vero che stiamo parlando di soldi già nostri, dei lavoratori, cioè dei dipendenti, me no perché sono un autonomo, però, e quindi capisco che la gente dica, sì ho capito, però al di là di quello che è già mio, qui c'è qualcosa di più oppure no? Esatto. Questo cioè, è un punto di conto. Uno vorrebbe magari vedersi ridotta la pressione fiscale, quelli sì che sono soldi che dico, oh mi rimangono per sempre, ma non... Aumentare le detrazioni per i figli, che ne so, ecco. Carlo da Milano ci chiama. Carlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo dire perché sono favorevole al TFR in busta paga, sì. È un'esperienza di vita vissuta. 2 anni fa mi sono dimesso da un'azienda, parlo di una PMI nel mese di marzo. L'azienda versava in non buone condizioni e mi ha proposto una rateizzazione del TFR e fortunatamente entro il mese di novembre io l'ho percepito tutto. L'azienda poi è andata in amministrazione controllata, cessione di ramo d'azienda, sì. Io ho ex colleghi che è 1 anno e mezzo che non hanno il TFR. Insomma lei teme che poteva anche perderlo questo TFR, quindi meglio averlo. Ecco. Alcuni miei colleghi che sento ancora oggi lo stanno ancora aspettando e quando c'è gente che lavora magari da 15 anni in un'azienda, lei immagina che cifre possano essere, coi tempi che corrono e col tempo che passa, perché alcuni di questi... Sì, però scusi Carlo, forse c'è un'ambiguità, forse sono stato ambiguo anch'io, non è che se ci sarà a febbraio in busta paga il TFR, non è che ci sarà il TFR di tutto il lavoro, cioè il TFR è maturato l'anno prima. No, ho capito benissimo, iniziamo con quello. Almeno quello lì di quell'anno... domani. Sì. Lei lo sa che ci sono molte PMI a rischio in questo momento. È chiaro, lei dice se uno è al primo anno di lavoro, il primo anno, ogni anno si mette via il TFR, non lo accumula e se lo tiene via ogni anno. Questo vorrebbe dire veramente che sono soldi nostri, perché per questi miei ex colleghi in questo momento sono ancora soldi dell'azienda. Sicuri di prenderli nel tempo, in quanti anni, non lo so, magari anche sicuri. Rivalutati, ma non sono così sicuri. Va bene, la ringrazio Carlo per la sua esperienza anche personale. Walter da Verona, buongiorno Walter. Alessandro, un nome e un incitamento, quanti anni è che aspetto di parlare con lei, caro? Maria Vergine con la Santa... lasci stare. Vai, no, ma dica la sua. Stai attento, in Italia i EPS le robe che lasciamo stare che non quelle che facciamo. Vabbè, adesso però dovremmo tradurre per tutti, caro Walter. Io sono d'accordissimo con l'amico Oscar, che è l'unica persona intelligente non laureata nel con master che parla bene in Italia, lo capisco benissimo. Allora, se non lo sappiamo, sì. Il TFR, secondo la proposta che ha fatto il nostro amico Renzi, sì. D'accordo? E non è più nemmeno, non si preoccupi, no, facciamo un accordo con le banche, d'accordo? Che sì. Naturalmente finanzieremo noi, eccetera, ma non lo sapete che dopo ci paghiamo anche l'IRAP sui debiti che abbiamo con le banche? Io ho una piccola impresetta, d'accordo? Mi sono impegnato anche, non le mutande, ma anche quello che c'è dentro le mutande oggi come oggi. E c'ho mio figlio dentro adesso che cerca di lavorare. Come faccio a dirgli, sta dentro, tu lavora oggi che ho fatto un impianto fotovoltaico e in sostanza mi hanno detto adesso le regole, in sostanza sì. Che avrei dovuto fare nel 2010, perché mi vogliono inculcare anche i 400, i 042, cioè in sostanza sì. Io voglio dire... Le robe non si può iniziare dal culo a farle, capito? È saggezza popolare, non so Oscar se tu... Io dico che il nostro ascoltatore aggiunge un elemento. A oggi alle imprese il TFR lo devono rivalutare ogni anno dell'1,75% più un quarto dell'inflazione. L'inflazione oggi è praticamente zero, quindi alle imprese oggi il TFR costa un po' meno del 2% in più ogni anno la sua rivalutazione. La proposta del governo sta in piedi perché le imprese piccole che non hanno soldi lo possano anticipare, se il prestito con le banche che anticipano, di cui il governo parla, costerà alle imprese meno del 2%. Oggi domanda, esiste un prestito praticato a meno del 2%? No, ma poi guarda, Oscar, non lo so, cioè non è che voglio essere prevenuto, ma quando sento poi che alla fine i soldi devono mettere le banche... cioè l'idea che, che le banche mettano dei soldi e non li recuperino da un'altra parte. No, anche perché abbiamo un esempio, cioè l'accordo per farsi anticipare il debito che deve la PIA, cioè lo Stato alle banche, alle imprese, il metodo per farlo pagare in Italia è stato quello di far pagare al creditore, cioè all'impresa, gli interessi sull'anticipo. Però, io vorrei fare, per concludere, sentire a Iraudo e a tutti i nostri ascoltatori il Renzi Crozza. Io vi chiedo, è più facile trovare un lavoro per tutti? Oppure sbianchettare l'articolo 1 della Costituzione? Ma no, ma come no? Ma perché? Che essendo più di 140 caratteri, nemmeno in tutto il mondo si esce fuori un tweet. Ma cosa c'entra? Il tweet. Ma, vabbè, ma onorevole Iraudo, ovviamente Crozza la vede in maniera un po' troppo con la satira, con l'ironia. Però che cosa non va bene anche della riforma del lavoro e della questione della fiducia? Perché sa, anche sempre su Twitter un nostro ascoltatore ci dice: ma basta discutere, sono 50 anni che si è discusso, forse siamo vittime di troppe concertazioni che non hanno prodotto nulla. Il risultato è che si rischia di reagire dall'altra parte, dice uno che basta, faccio io. Sì, però fa delle cose che gli italiani, a cui gli italiani non serviranno, perché vede, questo Job Act era nato per affrontare il problema della disoccupazione di questo paese, che sappiamo tutti essere enorme, è la preoccupazione principale degli italiani. Alla fine si riduce su togliere l'ultimo pezzo di tutela per quel che riguarda i licenziamenti, cioè la tutela in caso di licenziamenti discriminatori, cioè la reintegra per i licenziamenti discriminatori, e poi prevede, senza specificare, un'infinita pletora di attività, di iniziative che delegherebbe il governo a fare se il governo troverà i soldi, anche il 1,5 miliardi per gli ammortizzatori sociali, sì, di cui si è parlato fino a qualche giorno fa. Poi si scopre, guardando nelle pieghe, sentendo nei corridoi dei ministeri, che sono i soldi che recuperiamo dall'abolizione della cassa in deroga, cioè non so come dire, siamo ai carri armati di Mussolini, cioè continuiamo a far girare proprio le stessi denari, le stesse cifre, alimentiamo l'illusione. L'unica cosa concreta che facciamo è dire che se uno viene licenziato ingiustamente non potrà più essere reintegrato. Lo si vuole fare con la fiducia dopo aver fatto 20 giorni di discussione sui media, mandando i tweet agli Stati Uniti, avendo riunito la direzione del proprio partito, e alla fine lo si fa con la fiducia. Io francamente penso che sia il modo peggiore di risolvere il problema degli italiani. Politicamente perché... questo lo vedremo in Parlamento. Intanto io vi ringrazio, Oscar Giannino, ti ricordo oggi alle 16:30, Oscar, eccoci qui ovviamente, l'appuntamento sempre in radio. Oggi di che parlerai? Lo sai già? Di che parlerai? Sì, sì, parleremo di questa idea, spostandoci sulle imprese, di decide il governo a chi vuole abbassare l'IRAP eventualmente o meno, per la stessa ragione, non c'ha i soldi per abbassarlo a tutti, quindi vediamo a chi lo vuole applicare lui. L'appuntamento ovviamente qui a Radio 24 con il nostro Oscar Giannino, grazie anche all'onorevole Giorgia Iraudo. Dopo il traffico, ma è già con noi, lo voglio salutare, il senatore Luigi Manconi. Senatore, buongiorno. Senatore del buongiorno Partito Democratico, presidente della Commissione Straordinaria per i Diritti Umani, propone insieme ad altri, ma lui è il primo proponente, un disegno di legge sui corsi antiviolenza per la polizia penitenziaria. Corsi antiviolenza per la polizia. Tra poco ci spiegherà tutto. 24 mattino. Evidentemente c'è stato un problema con le strade in diretta che recupereremo comunque più avanti. Senatore Manconi, allora eccoci qua, senatore del Partito Democratico. È un periodo in cui, come lei ben sa, si discute di dotare i poliziotti di maggiore, le forze dell'ordine di maggiori anche strumenti, sia lo strumento, per esempio c'è la discussione sulla pistola elettrica, oppure strumenti dal punto di vista di finanziamenti. Lei invece ha proposto insieme ad altri colleghi un testo di legge per introdurre che cosa? Corsi antiviolenza per la polizia penitenziaria. Perché, senatore? Ce n'è bisogno? Ma guardi, mi dispiace che questa intervista con una persona simpatica come lei, lo dico senza alcuna lusinga, debba iniziare da parte mia con due correzioni, mi scusi infinitamente. Non si tratta di corsi per la polizia penitenziaria, ma di corsi per le forze dell'ordine tutte. Non si tratta di corsi antiviolenza, ma si tratta di corsi di non violenza. La distinzione, guardi, è enorme. Perché le tecniche di non violenza che noi proponiamo siano apprese sono strumenti efficacissimi per rendere inoffensivo l'aggressore. cioè perché si possano attuare metodi di contenimento delle persone da fermare o da arrestare che potranno risultare assai più efficaci di metodi oggi adottati, perché le tecniche di non violenza non significano in alcun modo la resa delle appartenenti alle forze dell'ordine, ma scherziamo, non significa questo. Guardi, io parto da due vicende che lei conosce bene perché ho sentito che lei ne ha parlato in più di una circostanza. La più recente è la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nel marzo scorso. Un'altra vicenda lontana nel tempo è quella della morte di Federico Aldrovandi, avvenuta a Ferrara. In entrambe le circostanze, quattro appartenenti alle forze dell'ordine, carabinieri nel caso di Magherini, polizia di Stato nel caso di Aldrovandi, sono stati, nel primo caso quello di Aldrovandi, condannati a 3 anni e 4 mesi per eccesso colposo, in omicidio colposo, perché quattro uomini non sono stati in grado di rendere inoffensivo e di fermare senza esercitare quella violenza che ne ha determinato la morte e dunque la condanna di coloro che sono stati considerati responsabili di quella morte, benché il fermato fosse un giovane di 18 anni senza armi. Stessa cosa riguarda Magherini. Avessero utilizzato le tecniche di non violenza, secondo lei invece non sarebbe successo questo? Avrebbero utilizzate le tecniche di non violenza, avrebbero avuto probabilmente più possibilità, perché qua il discorso fondamentale è chiedersi: è vero o non è vero che in un numero crescente di casi si rivela una incredibile deficit di professionalità, cioè di addestramento, di formazione, di capacità tecnica da parte di appartenenti alle forze nell'ordine nell'effettuare per esempio i fermi. Se vuole io le dico qual è la più frequente modalità adottata. E me la dica, cioè quello dello schiacciamento? La più frequente è quella di mettere prono la persona fermata, piegato sull'asfalto, le braccia dietro la schiena, ammanettato, e quattro persone sulla sua schiena, sul suo dorso, sulle sue gambe, cosa che ha provocato, come recita il rinvio a giudizio per i carabinieri di Firenze, unitamente allo stato certamente confusionale del fermato Magherini, ha provocato l'asfissia. È quella che io chiamo la compressione toracica, che il peso di quattro uomini adulti e oltretutto in entrambi i casi di forte struttura fisica possono esercitare su un fermato. Allora lei, io le chiedo questo, mi perdoni, le chiedo solo questo. Noi pensiamo che le tecniche oggi adottate siano quelle giuste e per tutelare l'incolumità dei fermati e per impedire che coloro che li fermano, poliziotti e carabinieri, non diventino responsabili di morti del tutto superflue, del tutto non necessarie, nei confronti di persone senza precedenti penali, senza armi. Però io le chiedo, senatore, questo vale soprattutto, mi pare di dire, nei casi di fermi di una persona, ma questo invece, quello che lei propone, andrebbe applicato anche alle tecniche, per esempio, di manifestazioni di piazza, che sono situazioni ben diverse, laddove per esempio ci sono una folla di persone che fuoriescono dal controllo, iniziano a spaccare vetrine o iniziano a aggredire le persone. In quei casi che si fa? Oh, ma guardi, basterebbe leggere il disegno di legge che ho presentato. Ovviamente non è obbligatorio farlo, però non è che io parlo di sostituire tutte le tecniche, tutte le modalità, tutti gli strumenti con quelle della non violenza, ma non sono mica scemo. Io di queste progetti le voglio dire, parlo abitualmente, regolarmente, con costanza, con i sindacati maggiormente rappresentativi delle forze dell'ordine, con loro affrontiamo questa discussione e con loro parliamo di una varietà di strumenti le posso dire una cosa, recentemente è stato sperimentato ed è diventato definitivo l'uso, stiamo parlando delle manifestazioni di piazza, della telecamera da sì, collocare sul casco. Io ritengo che questa sia una scelta opportuna, ma contemporaneamente, con tutte le cautele e con tutti, come dire, gli strumenti di riservatezza, non capisco perché in Italia non si possa nemmeno discutere del codice identificativo. Lei lo vorrebbe sulle divise? Decisamente sì, perché quel codice identificativo, come sa chiunque guardi le legislazioni di decine e decine di paesi democratici, non è mica l'esposizione del singolo poliziotto all'arrabbiata. Però questo è quello che dicono molti poliziotti, sa, viviamo in un paese in cui sui blog, Mi permetta, questo è quello che dicono molti poliziotti, moltissimi altri poliziotti dicono l'esatto contrario, ma basta spiegarsi, quel codice identificativo mica contiene la fotografia, il curriculum, l'indirizzo del poliziotto, consente alla magistratura e agli organi disciplinari interni delle forze dell'ordine di trovare la corrispondenza tra quel codice e eventualmente il nome della persona che si è resa responsabile di un atto di lesioni, di comportamento sbagliato, tutto qui non si parla d'altro, non si vuole una gogna. Mi dica, per concludere, senatore, che ne pensa della proposta che è in discussione di dotare i poliziotti di pistola elettrica, quella che hanno negli Stati Uniti e in altri paesi, lei come la vede? Vorrei che si affrontasse la cosa con la serietà necessaria. È vero o non è vero che nel 93% dei casi dell'uso di quella pistola elettrica il ricorso è stato fatto in presenza di persone disarmate? È vero o non è vero che nel corso di 12 anni il ricorso alla pistola elettrica ha prodotto centinaia di morti? Esaminiamo i dati. Se questi dati dessero ragione, non a me perché non sono io a portare queste ultime cifre, a coloro che dicono questo, io sono contrario. Evidentemente. Va bene, io la ringrazio intanto per essere stato con noi, il senatore Luigi Manconi, che ricorda il presidente della Commissione straordinaria per i diritti umani. E ci fermiamo qui con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione e poi il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Oggi parlo così, vado un po' Peter Bescapè. Vi diamo appuntamento a domani, 6:30, puntuali. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.